Fanculo, io ero qua sintonizzata che ti aspettavo. Vabbè, niente. che mi fai sapere che... Atleto, pare che ti faccio diventare uomo. Ma sei veramente un magician. E cazzo, ti pensavo, te lo devo mandare le foto dei tuoi uccellini stampati su A4 e stanno morendo sulla mia scrivania. Vabbè, com'è? Ma stasera ci becchiamo? Com'è? Vabbè. Com'è? Vabbè. E noi invece sul lavoro, no, arriviamo così. A casa. Ando alla salute, oh, salute Antonio. Stracciato per stracciare. Barbone. Andò, tu hai capito che mi stai meglio da cadò? Sono meglio da cadò. E allora, perché mo te avrei consiglio? Lascia stare, lascia andare queste energie. Andò, hai capito? Bisogna rassegnarsi. Ma è il contrario, non bisogna rassegnarsi a niente, bisogna lottare, spavaldi, carne da cannone. devo essere sincero, sai che non me lo ricordavo nemmeno io. Cioè, quando me l'hai chiesto avrei dato, cioè ero sincero quando ti ho detto, ti ho fatto dei video. Oggi pomeriggio mi sono accorto che due video mentre russavi te li ho fatti, ma perché stavi russando solo per quello? Scusa. Thank you. che resisti perché non c'ho voglia di mandare una segreta vitale, ma non è solo Mauro, comunque gli rispondo mai niente, che non c'ho voglia, se sono a cago faccio una foto della mia merda. Thank you. Grazie, congratulazioni, che meraviglia. E io in questo momento mi trovo a Mostar in Bosnia Erzegovina, quindi sono fuori mano sia rispetto al campo, ma soprattutto rispetto ai biliardi. Ma ho portato i biliardi a Mostar, perché siamo tutti ridotti come delle merde, e non importa, perché qua c'è la Lusa, che è la grappa bosniaca di cui abbiamo abusato fino ad ora. Magic, mi devi 100 euro. PayPal. PayPal. Mi devi 100 euro. PayPal, PayPal. PayPal, PayPal. Mi devi 100 euro. PayPal, PayPal. Dopo 10 anni finalmente l'ho ribeccata, senti. Senti. Come cazzo si intitola sta canzone, Ciccio? Puttanella, 10 anni a cantare sta canzone, minchia, sperando di ribeccarla, e l'ho ribeccata, puttanella. Non so il titolo, fratello. Grande, un bacione. Love. smetto subito di ascoltare questa radio di merda che passa solo musica indecente, fa schifo.